attrazione attraente, un gioco senza limiti, eccitano i tuoi sguardi innocenti, sono pieni di sensualità. Concepisci ogni mio pensiero e mi fai volare.